Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tornano le serate di Coppa e non poteva esserci davvero partenza più prestigiosa di un Barcellona-Milan. È vero che siamo nella fase a gironi, è vero che questa è l'epoca interlocutoria, anche se poi si scopre alla fine che spesso e volentieri, al di là della qualificazione, arrivare primi o secondi in questi gironi fa una signora differenza. Ma insomma, al di là del fatto che non siamo ancora all'eliminazione diretta e quindi alla Coppa vera, questo Barcellona-Milan è comunque un match affascinante da tutti i punti di vista, compreso quello che nella sua ottica tradizionale ha valorizzato stamattina il Sole 24 Ore, e cioè il confronto tra i fatturati, in cui è abbastanza nettamente in testa il Barcellona, che è in testa anche come costo del lavoro, cioè come monti ingaggi, che è aumentato quest'anno nel caso del Barça del 18%, ma è aumentato dell'8% anche a Milano. Ci sono dei risultati negativi d'esercizio di qua e di là. Il Barcellona ha un meno 79 milioni di euro e un meno 69 ha il Milan. I debiti globali, siamo di nuovo lì, ma con un leggero vantaggio per il Barcellona, che introita molti diritti televisivi in più. Ma tutto questo poi a poche ore dalla partita, insomma, ci interessa abbastanza relativamente. Sono discorsi da approfondire in altri momenti e in altre situazioni. Adesso stiamo parlando di qualcosa che stiamo apprestandoci a vivere stasera con, immagino, grande divertimento. Lo immagina anche Fabio Tavenni? Sì, buongiorno sì. Gigi. Tra l'altro volevo già rispondere alla domanda che avete fatto sulla vostra pagina Facebook. Ho visto, Gigi, che sei sbarcato anche tu. Sono prodezze queste che ragazzi che mi circondano, esatto, permettono di fare senza nemmeno avvisarmi, ma poi avranno a che fare. Avranno a che fare, ma siccome io lo sapevo, sì, sono partito subito così. Certo. No, nel senso che le ultime che arrivano da Barcellona sono di un Cassano in campo, e quindi Cassano accanto a Pato. Secondo me questa è una riflessione già immediatamente interessante, ovvero che fino a ieri pomeriggio il sospetto, la sensazione fosse che Pato potesse giocare come unico attaccante, quindi con uno schema, per così dire, ad albero di Natale, e invece Allegri farà giocare Pato e Cassano con Boateng dietro. Questo significa che il Milan va a Barcellona senza un attaccante in panchina. La riflessione più ampia che possiamo fare è anche questa. Ieri, a domanda precisa fatta peraltro da noi, ma che poi gli hanno fatto tutti, ad Allegri, un po' di rimpianto per non aver convocato Inzaghi, e lui ha detto: beh, comunque Inzaghi non gioca da un sacco di tempo e quindi già sarebbe stato difficile da proporre. Forse sarebbe anche il caso di, non lo so, smetterla di limitare la possibilità di convocare persone. Tu hai nella tua rosa un certo numero di giocatori, li iscrivi a inizio stagione alla competizione e poi puoi convocarli tutti. Cioè, io trovo che dovere, sì, tutti gli anni stare lì con rose che ormai sono molto più ampie rispetto al passato, nel senso che l'infortunio di Ibrahimovic, per carità, non è lungo, ma effettivamente se ti capitano un paio di infortuni e tu rischi davvero di andare fuori, di andare nel caso subito del Milan, però. Sì, è vero. Senti, hai già risposto al primo messaggio che era arrivato, firmato Piero da Torino, che diceva: ma come? Allegri dice che difendersi contro il Barcellona è un suicidio e poi lascia in panchina Cassano. So, hai già risposto con questa novità dell'ultima ora, cioè che Cassano sarà in campo stasera al fianco di Pato. Che cosa cambia questo per il Barcellona? Vediamolo un attimo nella loro ottica. Perché? Perché stamane supplemento della Gazzetta del martedì, insomma, dedicato al calcio internazionale, c'è una lunga e magnifica intervista a Xavi, al professore, il quale spiega un po' in dettaglio come gioca il Barça e fa un ragionamento interessante, indubbiamente, poi bisogna vedere fino a dove è valido, ma insomma molto interessante, sul numero di difensori che servono in rapporto al numero di attaccanti avversari, che secondo lui è sempre un numero eccessivo, no? Perché queste pedine potrebbero più vantaggiosamente giocare a metà campo e quindi avere creare una superiorità numerica a centrocampo ogni volta che si è in possesso del pallone, e poi sappiamo che il Barça del pallone sa cosa farsene. Sì. Alla luce di degli scricchioli che il Barcellona ha fatto vedere sabato, pareggiando una partita già vinta, eccetera. Questo discorso è realista o comincia a essere un tantinello presuntuoso, magari? Secondo me entrambe le cose, nel senso che probabilmente si stanno anche loro abituando a sentirsi dire e ripetere che sono i migliori del mondo, che non si è mai visto un calcio come il loro, che a questo punto ci credono e probabilmente se ne compiacciono. La spiegazione tattica però è molto interessante, perché il Barcellona quest'anno propone una possibile variante, che è quella della difesa a tre, addirittura con dei centrocampisti schierati come difensori centrali, come Sergi Busquets e come Mascherano. Non è il caso di questa sera, anche se onestamente a questo punto il dubbio sarebbe diventato interessante, perché nel caso in cui il Milan avesse schierato soltanto Pato, per carità, non è ufficiale che giochi Cassano, però la sensazione è questa. Sì. E allora magari poteva anche diventare interessante vedere se il Barcellona avesse cambiato gioco. Noi pensiamo che oggi il Barcellona giochi con la difesa a 4, con Dani Alves e Abidal sulle corsie, con probabilmente Pujol centrale, e quindi crediamo che giocheranno con il ritorno di Pujol ancora con la difesa a 4, ma nel caso in cui il Milan avesse schierato un solo attaccante poteva esserci anche la possibilità di avere direttamente al primo minuto Busquets centrale, magari sempre mantenendo Dani Alves. Poi la posizione di Dani Alves è particolare, perché la difesa a 3 impone spesso che siano dei difensori puri, ma il Barcellona scavalca anche di più, ancora questa regola, e fa giocare che dei difensori fa giocare centrali dei centrocampisti. Questo significa creare sempre una superiorità numerica a centrocampo, ma soprattutto dà la possibilità di impostare in un certo modo direttamente dalla prima linea difensiva. Il Barcellona è maestro nel recuperare il pallone, in realtà anche il Barcellona ha una sua cifra difensiva importantissima, perché recuperare un pallone sulla linea di mediana o sulla tre quarti avversaria è comunque un'azione difensiva. Certo, nella tre quarti avversaria di preferenza. Ha ragione, sì, esatto, perché anticipa praticamente una fase e la fa fare a una linea superiore. Che è la cosa che aveva sbalordito Mazzarri in quell'amichevole, in quello 0-5. No, Mazzarri è un grande tattico, indubbiamente, poi può risultare più o meno simpatico, ma che sia un signor tattico non c'è nessun dubbio. Lui è uscito da quell'amichevole, e proprio perché era un amichevole, proprio perché era trofeo Gamper, insomma, proprio perché era d'estate, proprio perché faceva un caldo asfissiante, lui la cosa che ha detto è: questi sono i fenomeni non solo per la qualità che hanno nei piedi, ma anche per quella voglia che hanno di andare a riprendersi la palla a casa tua, cioè nell'area, quasi nell'area del Napoli, ogni volta, quelle rarissime volte che la perdono. Questo fa la differenza, perché se tu la recuperi e la devi rimettere in gioco con il rinvio del portiere, o la recuperi sulla tre quarti tua, che è la mediana avversaria, beh, fa la differenza che hai 40 o 50 metri certo. Meno di campo da fare, e oltretutto la differenza successiva è che poi il Barcellona trasforma in oro spesso il piombo, e quindi prende la palla e fanno tre tocchi e vanno in porta. Finché gli riesce così facile, ben venga, ed è molto divertente da vedere. Il programma completo di stasera, oltre a Barcellona-Milan, sono 8 partite, sono davvero tante, e c'è del grano e c'è dell'olio. Il grano, per esempio, è Borussia Dortmund-Arsenal, poi Fabio Tavelli mi correggerà se sbaglio, e certamente Chelsea-Leverkusen, Porto-Shakhtar, Genk-Valencia-Olympiacos-Marsiglia, già facciamo un minimo di fatica, Apoel-Zenit, la prendiamo per buona perché lo Zenit l'allena Spalletti, e poi c'è un Viktoria-Pilsen-Bate-Borisov, che magari se ci dai qualche indicazione geografica ci aiuti, insomma. Ma sai, questa intanto, vabbè, Bate Borisov più o meno l'avevamo visto qualche anno fa, giocò contro il Milan. Sinceramente sì. Il Viktoria Pilsen io l'ho visto nel preliminare, l'ho visto su diretta gol, intendiamoci, non ho visto tutta la partita. Mi sono sembrate squadre che da un lato meritano ogni tanto di farsi vedere, perché questo fa parte del pensiero di Platini. In effetti ci sono molte squadre nuove nella fase a gironi, però credo anche che la riflessione che l'UEFA debba fare è questa, cioè che senso abbia un girone nel quale Bate Borisov e Viktoria Pilsen devono duellare con Barcellona e Milan, nel momento in cui poi accade che ci siano gironi con Manchester City, Bayern di Monaco, Villarreal e Napoli. E va bene tutto, ed è giusto che sia così, perché comunque se no Viktoria Pilsen e Bate Borisov a questi livelli non apparirebbero mai e non impareranno mai, perché impari a giocare con i bravi, non con quelli meno bravi. che tipo di interesse possa suscitare questa partita fuori dai confini delle due città, che in questo caso Praga, che ospita la partita d'andata, e il Bate Borisov che giocherà quella di ritorno, sinceramente questo sfugge, sfugge. A me sfugge, poi magari interessi ci sono, però a me sfuggono. Ci sarà tempo poi domani per elencare le partite di domani, per andare nel dettaglio. È chiaro che il clou è Manchester City-Napoli, perlomeno per noi, e poi c'è l'Inter in casa. Di Inter parliamo più tardi, perché qualcosa sta cambiando nella conduzione, cioè non nella conduzione tecnica della squadra ancora, ma insomma comunque nella filosofia di impostazione. Due o tre curiosità di calcio internazionale non strettamente legate alla Coppa. Dunque, la prima è che il nuovo allenatore del Monaco, o Monaco comunque, quello francese, è Marco Simone, che a Monaco c'era stato, in quella stessa città, c'era stato da calciatore, che è una scelta curiosa, sentimentale o come altro. O disperata, nel senso che il Bayern, che il Monaco... Effettivamente. Essendo retrocesso nella scorsa stagione, vive evidentemente un momento difficile. Diciamo anche, però io tra l'altro credo, lo stiamo cercando per intervistarlo oggi pomeriggio, una delle domande che mi piacerebbe fargli è proprio questa, cioè il Monaco è stato addirittura finalista di Champions League con Didier Deschamps nell'edizione 2004, quella vinta da José Mourinho con la finale Gelsenkirchen. La domanda è questa, cioè è vero che giocare a Monaco nel Principato di Monaco con questa atmosfera molto ovattata, questo stadio meraviglioso che sembra più un salotto, è più difficile che giocare altrove, cioè è più difficile nel senso che magari trovare la concentrazione, un certo tipo di rabbia agonistica e tutto quello che fa parte della normalità di un calciatore o del calcio magari non c'è. Quindi sarei molto curioso di sapere questo da lui che ha anche giocato in questa squadra. Detto questo, poi l'interesse per il campionato francese quest'anno è leggermente superiore, vista la presenza di Pastore nel Paris Saint-Germain, l'arrivo di alcuni giocatori anche dal campionato italiano. Diciamo che la Ligue 2 non è un campionato particolarmente interessante, però insomma, registriamo anche questa e ovviamente certo. L'in bocca al lupo è doveroso. Quindi oggi su Sky Sport 24 prima o poi rivedremo dopo una discreta eclissi Marco Simone. Hai anticipato la domanda o comunque l'argomento successivo, e cioè non si è capito bene la sera di domenica se sia stato Miccoli per esempio a ispirare Pastore, decisivo col Paris Saint-Germain contro il Brest, o se magari sia stato il contrario, e cioè che il neo parigino ha ispirato i suoi vecchi compagni palermitani. Devo dire che le giocate di Miccoli, poi ieri ho avuto anche il piacere di parlare sia con Piniglia che con Abel Hernandez, sono sempre quelle, cioè nel senso che poi Miccoli ha questo stampo quasi sudamericano, tra l'altro in una partita dove hanno segnato tutti i sudamericani, no? Perché ha segnato, sì, Forlan, ha segnato Milito, ha segnato Hernandez, e ha segnato Miccoli che in questo senso è davvero un sudamericano dal punto di vista della capacità calcistica di toccare il pallone. Devo dire che il gol di Pastore è stato un bel gol, ispirato da Menes, un gol che un giocatore non bravo non fa, nel senso che lo ha proprio pensato, ha fatto questo pallonettino morbido con imprendibile e in controtempo sul portiere, cosa che fanno solo quelli veramente capaci. Poi può riuscire per caso anche uno scarso, ma è abbastanza casuale. Difficile. Lui piano piano, mi dicono amici francesi, che sta diventando un fattore vero in questa squadra, nel senso che ha fatto una scelta particolare, che è stata una scelta che per certi versi può essere anche criticabile, cioè di andarsi a chiudere in un campionato non di primissima fascia, però credo che adesso piano piano, anche con l'allenatore che sta trovando un certo tipo di tranquillità, non ha più il fiato sul collo ogni partita che disputa, il Paris Saint-Germain credo che stia mettendo una marcia abbastanza alta, diciamo che su un'auto a 6 marce siamo già alla quarta e stiamo per mettere la quinta. Quando metterà la sesta andrà via, non credo ce ne sarà più per nessuno. E l'ultima curiosità è che tra bastone e carota ogni tanto il bastone paga. Se è vero che uno di quei due puniti da Magath con una multa perché non correvano, col Wolfsburg, ha segnato due gol decisivi. Esatto, perché il bastone può essere anche considerato poi anacronistico, ma a livello educativo spesso paga. Devo dirti, Gigi, che adesso al di là poi dell'interesse della multa di Magath, sono molto curioso di vedere che cosa accadrà al Chelsea, perché il Chelsea questa sera gioca contro il Bayer Leverkusen, c'è il ritorno di Ballack e credo che Villas-Boas stia pensando la stessa cosa di Torres, il quale ha rilasciato un'intervista al magazine della Liga Spagnola e il Chelsea ha chiesto alla Liga Spagnola di avere il cartaceo con tutta la documentazione dell'intervista, perché Torres avrebbe detto: non mi piace il gioco di questo Chelsea, i miei compagni giocano troppo, sono troppo lenti e io non mi trovo bene in questa squadra. Ora, lui di suo ci ha messo il fatto che quando gioca non incanta. Villas-Boas l'ha tenuto anche fuori dall'inizio nella partita scorsa del campionato di Premier League. Può essere che Fernando Torres si becchi la stessa multa dei giocatori del Wolfsburg e magari possa anche reagire così. Sarebbe ora, onestamente, perché ormai è un po' di tempo che non la becca sto granché. Che non la vede proprio. A domani, Fabio. Grazie Gigi, a presto, un saluto a tutti. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24, acceleriamo. Sentiamo, restiamo però ovviamente in Europa in attesa dei vostri poi interventi in diretta, direi nella seconda parte del programma. A questo punto, immagino che tutti sappiano a quest'ora, gli interessati, se non c'è gli interessati, quelli che si interessano di tennis, che Djokovic ne ha vinto un'altra e che quindi ha battuto Nadal stanotte a Flushing Meadows e in 4 set si è aggiudicato anche quest'altro titolo da grande slam. Djokovic è arrivato quest'anno a 64 vittorie su 66 partite, che comincia a essere una discreta percentuale, avendo vinto tra l'altro gli Open d'Australia, avendo vinto Wimbledon e avendo aggiunto adesso Flushing Meadows. Dicevo delle voci che arrivano dalla Spagna, per esempio quella di Guardiola, che si rammarica per l'assenza di Ibra. Io sempre penso che questo lavoro, il calcio, appartiene ai calciatori, non appartiene a nessun altro, nemmeno agli allenatori, nemmeno ai giornalisti. La gente paga un biglietto, la sua tessera, per andare a vedere i grandi, grandi, grandi calciatori. Ibrahimovic è uno di quelli. Mi spiace tanto che non possa essere qua, perché sempre noi preferiamo giocare con tutti i grandi campioni. Noi sappiamo che lui lo è, perché lo abbiamo conosciuto qua. Sicuro che il ritorno ci sarà e gli auguriamo un pronto recupero. Sentiamo di che entità è questo infortunio che Ibrahimovic ha accusato in allenamento ieri, tra l'altro proprio mentre eravamo in onda e per una questione di minuti non siamo riusciti a informarvene in maniera tempestiva. Il medico del Milan, dottor Tavana. Alla fine dell'allenamento ho avuto un risentimento muscolare, un dolore accusato in pratica, abbiamo fatto delle indagini, c'è una piccola lesione al muscolo, al pettineo per essere precisi, ci induce a non rischiare. Faremo degli accertamenti ulteriori più approfonditi nei prossimi giorni e sarò più preciso su questo. Intanto c'è l'immediato, era di queste ore, dovevamo decidere. Niente Barça, niente Napoli, praticamente già scontato anche il forfait di domenica sera nel posticipo importante di campionato a Napoli e forse un altro paio di partite da saltare. Questa è la prima ipotesi di prognosi. Adesso Paolo Maldini è intervistato in un programma spagnolo bellissimo, tra l'altro mi dicono gli aficionados, che va in onda su Canal Plus spagnolo, e questo programma si chiama Fiebre Maldini ed è da sempre dedicato all'ex fuoriclasse del Milan, che stavolta partecipa da invitato, da ospite. Sentiamo. Io credo che per fermare questo Barcellona abbiano provato in tante maniere, probabilmente riuscire a chiudersi bene per 90 minuti e riuscire a sfruttare contropiede sia l'unica maniera per uscire vincitori contro questa squadra. E più credo la squadra che gioca contro il Barcellona che deve cercare delle maniere per giocare, mentre loro giocano sempre la stessa maniera. Questo Barcellona non si possa paragonare a nessun'altra squadra che si sia vista negli ultimi 20-30 anni. È efficace perché ha la pazienza, ha il possesso palla e poi ha tanta qualità. La ricerca del possesso palla io credo che vada sempre cercata per una squadra che ha un obiettivo grande come può averlo un Milan. la più grande squadra che si sia vista negli ultimi 20-30 anni, un parere grifato Paolo Maldini. Ancora un attimo di pazienza, gli ascoltatori già collegati e pronti ad intervenire. Volevo ascoltare che cosa ha detto Moratti a proposito di Gasperini. Credo che poi sia lui stesso, per primo senza bisogno di nessuna spinta, che cercherà di vedere come porre quei rimedi necessari, se non altro al momento, per rimettere la squadra in condizione di aver fiducia. Insomma. Non giochiamo in 12, ecco, quindi quello sono scelte che non che sono giuste da parte dell'allenatore. Fra l'altro ha giocato Milito, ha fatto 2 gol, quindi non posso dire assolutamente niente, anzi Milito è un super campione. Si riferiva al dilemma tra Pazzini e Milito. Non tira una buonissima aria per Gasperini all'Inter, tanto è vero che cominciano a filtrare alcune curiosità della conferenza stampa di Appiano Gentile di questi momenti, no? Alla vigilia di Inter Trabzonspor, debutto in Coppa di domani sera, e è già annunciato, comunque è molto probabile, una discreta marcia indietro sia sul fronte della difesa a tre sia su certe scelte, a cominciare da quella di Snyder. C'è una deliziosa battuta, Roberto Beccantini, i più attenti di voi lo ricorderanno, ha fatto una grande rentrée radiofonica qui da noi la scorsa settimana, lo scorso giovedì mi pare, e stamane ha debuttato invece come editorialista sul Fatto Quotidiano, editorialista del martedì mi pare di capire, come commento al campionato, insomma commento agli spunti principali del campionato, e sul Fatto ne ha sparato una delle sue, raccontando che Gasperini è stato arruolato soltanto dopo l'emergenza rifiuti all'Inter, e i rifiuti erano quelli di Bielsa, di Capello e di Villas-Boas. Salvatore ha chiamato la provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica. E volevo un suo giudizio tecnico su Napoli dopo gli acquisti che ha fatto, e anche in particolare per domani sera, se possibile, la ringrazio. Ma domani sera è dura, per non dire durissima, è duro anche il girone. E insomma, non dico che sarei stupefatto, ma mi meraviglierei abbastanza se il Napoli riuscisse a qualificarsi. Io credo che il Napoli abbia eccellenti prospettive di fare ancora meglio dello scorso anno in Italia. Lo ha dimostrato fin dalla prima uscita, perché ha giocato con una convinzione assoluta su un campo tutt'altro che facile, tanto un campo sintetico, era il primissimo in Italia nella storia in Serie A, e quindi in ogni caso era una novità. Si è adattato molto bene, ha colto l'attimo dell'espulsione del difensore del Cesena per ritornare in vantaggio, ma spesso e volentieri è una qualità in assoluto quella di saper cogliere gli attimi. Ha una rosa certamente più ricca di quella dello scorso anno, e ha acquistato qualità a centrocampo con Inler e direi anche con Gemaili, per cui insomma, mi sembra che abbia più di una per permettersi qualche sogno di gloria. In Italia, in Europa, con quella concorrenza direi proprio di no. E se invece poi smettirà questa previsione, tanto riguadagnato. Alberto da Udine, buongiorno. Buongiorno. Senta, una cortesia. Intanto volevo sapere se c'era qualche novità riguardo al ricorso nel girone dell'Udinese, del Sion, del Celtic, questo problema che c'era ultimamente, che non si era ancora ben capito perché mi pare che inizialmente aveva vinto ricorso il Celtic, dopo aveva fatto a sua volta ricorso al Sion, quindi non si è capito molto bene. Il ricorso del Sion è stato bocciato, certamente. Ecco, perché a proposito del discorso che faceva prima con il suo collega, anche il girone dell'Udinese, l'Udinese quest'anno tra le preliminari si è beccata l'Arsenal, il girone c'ha Atletico Madrid, il Rane, adesso c'ha il Celtic. Pure questo è un girone quasi più da Champions League, quasi rispetto quasi. Però tenga conto, Alberto, che esistono apposta le teste di serie nei raggruppamenti europei, no? Cioè lì si va a quarti di nobiltà e a risultati recenti. Ora l'Udinese con tutto il rispetto e anche l'affetto, non si può dire che abbia queste enormi tradizioni europee, quindi quando ci entra in queste competizioni ci entra da outsider, e quindi il nome e quindi il carisma e quindi i sorteggi se li deve costruire, i sorteggi favorevoli intendo, se li deve costruire un po' alla volta. È fatale che sia così. Mario, provincia di Cagliari, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi, a tutti voi. Ah, io volevo parlare invece sì, dell'Inter, ma di Giulio Cesar, che sta diventando un pochettino... Cioè, gli errori sono un po' troppi, anche visto nel campionato sudamericano, quando con la sua nazionale ha fatto degli errori abbastanza gravi. Domenica, quella sua punizione, per me era veramente grave. Cioè, stiamo iniziando a perdere un po' troppi punti a causa di Giulio Cesar. Cioè, non è più un episodio, ecco, gli episodi sono sempre di più e mi preoccupa un pochettino. Tutto qui. Ma insomma, io già qualche mese fa mi ero permesso di buttare lì che cominciavano ad esserci analogie un po' inquietanti con Dida, no? E mi sembra che questa tendenza, questo sospetto, insomma, si stia prendendo corpo, si stia rafforzando nel Brasile, come ricordava lei, ma anche nell'Inter. Insomma, Giulio Cesar per qualche anno è stato un grande valore aggiunto per l'Inter, e adesso direi da qualche tempo non lo è più, nel senso che è ancora capace di grandi prodezze, su questo non c'è dubbio, perché è ancora capace di grandi prodezze, però è diventato capace anche di errori abbastanza clamorosi, più clamorosi anche quelli dell'altra sera, insomma, l'errore clamoroso forse è meno inquietante di un errore di piazzamento come quello dell'altra sera sulla punizione di Miccoli, cioè sul farsi impallare rispetto al tiratore dalla propria barriera. Mario dalla provincia di Cagliari, no, era questo ascoltatore, grazie. Allora sì, ho avuto un problema di confusione sul display. C'è Pietro in linea da Viterbo invece, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Io venerdì sera ho visto una bella partita, Milan-Lazio, la prima mezz'ora una Lazio fantastica, poi degli errori difensivi hanno creato i presupposti per un Milan più forte nel secondo tempo. Ma non è questo quello che vorrei dire. Ho visto due giocatori bravissimi dall'una e dall'altra parte, Biava della Lazio e Abate del Milan. Dico, due difensori straordinari che servirebbero moltissimo alla nazionale. Vorrei sapere da lei cosa ne pensa. Biava gioca nella Lazio, se giocava nell'Inter, nel Milan, forse era già in nazionale. Speriamo che ne tengano conto, ma Abate è ancora giovane e sono due difensori non meglio dell'altro. Vorrei sapere da lei il suo pensiero, grazie. Il mio pensiero è che se bastasse essere del Milan o dell'Inter, come dice lei, per giocare in nazionale, allora perché Abate non... Perché gioca Abate e non Cassani? Cioè, perché giocano Cassani o Bazzaretti e non Abate? Io terrei sempre presente anche la carta d'identità, e quindi direi che Abate ha certamente un buon futuro, può avere un buon futuro azzurro davanti a sé. Su Biava ho qualche dubbio in più, ecco, io direi. Ma visto che parliamo di difensori, abbiamo ancora da parte un frammento di questa bellissima intervista che Paolo Maldini ha rilasciato al programma spagnolo di Canal Plus, Fiebre Maldini, appunto, che è un programma molto bello e che gli fa l'onore di portare di avere il suo nome nel titolo. In questo altro frammento Paolo Maldini parla di Guardiola. Devo dire che è stato fortunato, perché è arrivato giovane, è stato scelto giovane, ha avuto un'esperienza nella squadra B, ma poi ha trovato una squadra che già con Rijkaard aveva questo tipo di gioco. Io mi ricordo che sono andato a giocare contro quel Barcellona lì e avevano il pressing immediato subito. Diciamo che era stava per nascere quel tipo di Barcellona, ma poi Guardiola è stato anche molto bravo, perché è una persona che sa quello che vuole, non ha problemi a fare delle scelte anche che possono... potrebbero essere complicate, come quella di comprare Ibra e poi di venderlo, e ha comunque alle spalle, ho parlato con lui recentemente, li ho visti durante la tournée che hanno fatto quest'anno negli Stati Uniti, mi ha detto che è fortunatissimo, perché lui, se chiede un giocatore, la società fa di tutto per darglielo, e infatti si parlava di Fabregas e Fabregas è arrivato. Sì, è niente, così come era arrivato Sanchez, che non ci sarà stasera, il gioiello ex Udinese, perché è un brutto stiramento quello che ha accusato sabato contro la Real Sociedad in campionato, ed è uno stiramento molto ai confini con lo strappo, ammesso e non concesso che non l'abbia varcato questo confine, quindi se ne fa per almeno 2 mesi. Alessandro dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, io sono un simpatizzante dell'Inter, volevo sapere cosa ne pensa lei di questo fatto che Gasperini insomma sembra che stia cambiando rotta tattica, secondo me è l'anticamera dell'esonero, lei pensa che sia un segno di forza o un segno di debolezza? Perché è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, però è anche vero che cambiare idea dopo una partita andata male insomma dà la sensazione di uno che non ha la forza per imporre le proprie idee. L'ascolto per radio, grazie. Sì, a me dispiace molto perché Gasperini è una deliziosa persona ed è un bravo tecnico che probabilmente si è trovato proiettato in una, ma non tanto in una dimensione più grande di lui, ma intanto un ambiente che non auguro, non dico il mio peggior nemico, ma quasi, ma insomma in una dimensione precaria dopo anni di successi, no? E quindi si è trovato a gestire anche una, secondo me è una squadra di vecchie glorie, no? Su cui non è semplicissimo innestare dei giovani, alcuni dei quali hanno anche talento, con le stesse ambizioni di prima, di quando le cose erano, i giocatori erano più forti e tutto era più facile, e invece con delle difficoltà inedite. Credo davvero che non vada invidiato, e credo che, come spesso accade in situazioni come questa, ci abbia messo del suo per cercare di trovare un rimedio a questa situazione, un rimedio in cui lui credeva davvero, cioè certe formule, certe scelte, certi metodi, certi moduli, e invece si sono rivelati un tacon pesor del buso, come dicono dall'altra parte, all'est, nel nord-est anziché nel nord-ovest. Peso il tacon che sbrego, mi corregge Max da Treviso, ma sono molte le versioni di questo antichissimo modo di dire. Sentiamo che cosa ha trovato per il 13 settembre Nicola Filippone. Sembra ieri. 13 settembre 1964. Prima giornata di campionato, il Torino di Nereo Rocco batte 2-0 il Mantova, debutta in maglia granata un giocatore destinato a entrare nel cuore dei tifosi. È il 21enne Gigi Meroni, alla destra raffinata e geniale, che si era messo in mostra prima nel Como e poi nel Genoa. In quella prima stagione da granata, Meroni saprà subito guadagnare la ribalta, disputando tutte e 34 le partite di campionato e andando a segno 5 volte. Gigi Meroni. Il 13 settembre è anche il compleanno dello stadio di Firenze, dell'attuale Artemio Franchi, che fu inaugurato con un amichevole tra Fiorentina e Admira Vienna esattamente il 13 settembre 1931. Quindi oggi lo stadio fiorentino compie esattamente 80 anni. Mimmo ha chiamato la Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini. No, io volevo sempre parlare della crisi dell'Inter attuale. Secondo me è un problema proprio che nasce all'origine di questa stagione, è l'area di smobilizzazione da parte della società dal presidente, prima vendendo Eto'o, poi quasi in ultimo non è riuscito a cedere Snyder. Pure i senatori, secondo me i senatori si sono dati anche loro, non mettono più l'intensità alla grinta che mettevano 2 anni fa o l'anno scorso, ma non per ragioni solo anagrafiche, è proprio per mentalità. Vedendo che il presidente dice vendo Eto'o, poi vendo Snyder e compra Zarate o Forlan, anche loro, perché domenica vedendo la partita cambiasso, Stankovic, non corrono più come una volta. Non sono d'accordo Mimmo, hanno corso male domenica e hanno corso forse persino troppo, nel senso che non c'era, era una partita a scapoli ammogliati, adesso diciamolo, no? Anche perlomeno tutto il secondo tempo, perché in una partita più seria io credo che la difesa dell'Inter non può subire 4 gol in 40 minuti o in 41 minuti dal Palermo, con tutto il rispetto per il Palermo. Soprattutto dopo aver già corso un sacco di rischi nel primo tempo, perché Palermo era molto bravo a cercare di piazzare sempre almeno un giocatore, di preferenza Miccoli, tra le linee, cosa non impossibile visto che di distanze ce n'erano. Allora tu vai ugualmente in vantaggio due volte, ti fai rimontare due volte e poi addirittura dal 2-1 passi al 2-4, beh insomma... io non ho visto problemi, ripeto, problemi di mobilità, problemi di corsa, perché anzi hanno corso persino, semmai il problema è che cambiasse uscita a un certo punto, in combinazione quando è uscito c'è stato ancora meno filtro a metà campo, e il filtro a metà campo per giocare in tre in difesa è assolutamente decisivo, tant'è vero che nel Genoa quel modulo funzionava perché a metà campo c'erano dei giocatori di grande dinamismo, dei guerrieri, dinamismo a volte anche eccessivo da un punto di vista agonistico, insomma il discorso è lungo, ma che i giocatori dell'Inter non corrano, ecco, questa mi sembra proprio il classico luogo comune di quando le cose vanno male senza particolari riscontri con la realtà attuale, poi in un domani non saprei. Un altro Mimmo, stavolta da Roma, buongiorno. Buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione, devo fare i complimenti anche a gente per come ha condotto la stagione estiva e vi faccio gli auguri per questa nuova stagione. Volevo chiederle, perché voi siete portatori di educazione e di saggezza, Andrea Pirlo penso che sia, ecco, un educatore del pallone. Quanto Andrea Pirlo può portare diciamo alla Juventus e se la può condurre a vincere la Coppa Intercontinentale come ha fatto col Milan? Grazie e complimenti ancora. Mimmo, grazie a lei. Dunque, Andrea Pirlo secondo me può essere utile alla Juventus, non più come lo è stato domenica, nel senso che non so se gli capiterà ancora di riuscire, pur essendo lui un maestro nello smarcamento, nel trovare spazi, nel non dar nell'occhio magari, pur di avere quella, appunto, l'aria sufficiente a piazzare i suoi assist o le sue sventagliate, ma insomma è difficile che gli ricapiti, soprattutto dopo una partita così, così bella e così decisiva, che gli ricapiti di avere tutto quel vuoto intorno, no? Che domenica il Parma gli ha lasciato. Questo evidentemente è un paradosso, per dire che cosa? Per dire che credo che insomma, il difficile per la Juventus debba arrivare, come d'altra parte è successo in tutte queste ultime stagioni, che erano partite bene, ma qualcuno dice non così trionfalmente. Boh, io ricordo alla seconda giornata una vittoria a Roma con i gol di Diego, e stiamo parlando di 2 anni fa, con i gol di Diego e la regia di vera o presunta di Felipe Melo, e ricordo delle cose, no, dei fescennini, avrebbe detto Brera, delle celebrazioni, ricordo dei telecronisti perdere la voce, farsi saltare le corde vocali per il gol di Diego. Insomma, io ci andrei molto piano. Ora, questo no, non per mancare di rispetto a Pirlo e paragonarlo a Diego, sia ben chiaro, perché Pirlo è Pirlo e lo è da tanti anni ed è un giocatore come ce ne sono stati pochi nel calcio italiano, però questo per dire che insomma, piano con le euforie e in attesa di controprove, no? sempre da questo punto di vista. Quindi io capisco i sogni che vanno autorizzati, ma che da due assist, per quanto deliziosi, lei già passi alla finale contro il Parma, lei già passi alla finale intercontinentale, beh, insomma, io credo che in mezzo qualcosina ci debba ancora passare. In mezzo per il Napoli c'è il City, e quindi c'è Roberto Mancini, che ha parlato proprio di Napoli in questo frammento di intervista. Sicuramente la prima partita sarà una partita differente da quella che probabilmente sarà la seconda, sarà difficile perché è l'impatto, però noi vorremmo cercare di far bene, insomma. Mario non va in una seconda fascia perché Mario è alla pari di Dzeko, Balotelli e Tevez, è un grande giocatore, noi giochiamo ogni 3 giorni, quindi tutti gli attaccanti giocheranno, hanno le proprie possibilità e dovranno dimostrare comunque di meritarsi il posto. Questo mi sembra abbastanza normale, però io ritengo Mario uno dei più forti attaccanti al mondo. Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione. Grazie a tutti, appuntamento a domani.